La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ed è per questo, compagni, che il 2 febbraio, ormai è passato quasi un mese, abbiamo occupato le facoltà. Abbiamo dimostrato al rettore, al questore, al governo che sappiamo rispondere anche al manganello. Che non... Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. È il 1968, un anno che diverrà simbolico e non solo in Italia. È un periodo storico in cui il fermento e la partecipazione sociale sono altissimi. Le università occupate, l'impegno politico, il bisogno dei giovani di farsi sentire. Questa è la prima volta di un'intera generazione ed è anche l'inizio della storia di un singolo, Mario Capanna, che dei movimenti studenteschi diverrà il leader. Ma prima di arrivare al 68, le cose per Mario seguivano altri ritmi. Allora, il mio sogno da bambino era stare in simbiosi con la natura. Io sono nato in una piccola frazione di campagna in Umbria, nel comune di Città di Castello, 200 anime tra Siena, e mi ricordo interi pomeriggi passati in riva al torrente, un affluente del Tevere, oppure sdraiato su un prato a guardare le nuvole e studiarne tutti i disegni, e lì la fantasia che galoppava, no? Poi, da più grandicello, da adolescente, il mio sogno era di fare l'insegnante di scuola media superiore. E poi il 68 ha deciso diversamente. Questa è la prima volta di Mario Capanna, che tra meno di una settimana compirà 70 anni. Una prima volta questa che ha il sapore dell'impegno politico, perché Capanna è uno di quei ragazzi del 68. Un giovane che, come dirà lui stesso in questa intervista a Dario Ceccarelli, dimostrerà che il mondo si può davvero cambiare. Mario Capanna, siamo al giro di boa dei 70 anni. Che effetto le fa? Ma positivo, nel senso che sto benissimo nel fisico e nella mente, e quindi per me è un compleanno, per così dire, normale, anche se mi rendo conto che stiamo andando in là. Però spero di poter ancora battagliare per almeno altri 20 anni. Senta, lo possiamo dire, lei è una delle figure che più ha contribuito a demolire un certo tipo di vecchia società, diciamo quella del pre-68. Ecco, dopo così tanti anni, è contento di quello che è venuto fuori? Ne valeva la pena? Ecco la domanda di fondo. Allora, non sono contento, diciamo, di quello che è venuto fuori e soprattutto degli sforzi che vengono fatti per cercare di demolire quanto di bello e di positivo è venuto fuori, però non solo ne valeva la pena, ma ne è valsa la gioia. Io preferisco usare questa espressione, non è valsa la gioia, perché, in una battuta, il merito a mio avviso maggiore del 68, delle grandi lotte di quegli anni, è stata la sua dimensione planetaria, e quindi il merito maggiore del 68 è che c'è stato. In che senso? Certo. Nel senso che da allora il mondo sa una verità fondamentale, che cambiare il mondo è possibile. Prima lo sapevamo dai libri, no? Ce l'aveva detto Platone, Gesù, i socialisti utopisti, Marx. Da allora centinaia di milioni di persone hanno sperimentato che se si vuole cambiare il mondo è possibile. Contestazioni, dibattiti, perfino un sottosegretario all'istruzione ha detto che le occupazioni delle scuole fanno crescere. Lei che se ne intende? È d'accordo? C'ha ragione. Non a caso a dire questo è stato un sottosegretario giovane, che quindi non si è dimenticato, diciamo, della sua adolescenza e della sua giovinezza. Io ho sempre pensato che una delle colpe inescusabili degli adulti e quando essi non si ricordano di quando avevano 16, 18 o 20 anni. Le occupazioni sono un momento, quando sono fatte seriamente, ben inteso, no? sono un momento di grande socializzazione, di grande crescita civile, politica e culturale, dove, per così dire, l'io si mescola al noi e tutti e due crescono. In questo senso, senza ovviamente esagerare, sono indubbiamente utili. Ecco, una domanda da $1 milione o di euro, quello che vuole. La sinistra italiana ha fatto i conti con la sua storia? Li ha fatti, ma nel modo peggiore, il peggiore immaginabile. Cioè, ha rinunciato all'idea di progettare il cambiamento della società e quindi il cambiamento dei rapporti interpersonali, dei rapporti che devono essere di pace e non di guerra tra i popoli, per cui ha finito con lo sposare queste orribilissime politiche neoliberiste che infatti stanno impoverendo il mondo, da qui le crisi, non solo le crisi economico-finanziarie mondiali, ma le ruberie per cui ormai, cioè, la corruzione non è più qualche episodio isolato, ma ci svegliamo, come anche i fatti recenti di questi tempi dicono, sopra un verminaio di ladrocini, no? E allora bisogna che la sinistra torni a svolgere la sua funzione, altrimenti farebbe meglio chiudere bottega, perché sarà la storia, se non cambia, a farle chiudere bottega. Ecco, lei a un certo punto si è staccato dalla politica per dedicarsi ad altro, ad esempio ai movimenti anti-OGM e all'ambiente, eccetera. Ecco, questo perché? È una disillusione? No, perché quella che noi per convenzione continuiamo a chiamare politica, in realtà non c'è più, perché è sostituita dalla finzione e dalla simulazione. Ecco perché i governi, siano essi di centrodestra, di centrosinistra, ma non solo in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, si veda la parabola indegnamente discendente del povero Barack Obama, eccetera, non risolve nessuno dei problemi. Viceversa, l'impegno sugli OGM, sulle biotecnologie, sull'ambiente, sui mutamenti climatici, chiama dentro tutti i saperi, diciamo. Occorre una coscienza globale, interdisciplinare, e questa secondo me è la vera politica. Non a caso su questi temi si aggrega un sacco di gente, perché sono temi drammaticamente concreti dell'oggi e del domani. A guardare nei ricordi sembra ancora ieri che salivo su una sedia per guardare i treni. Da dietro la finestra su un cortile grande un bambino, mio fratello che studiava lingue misteriose, in ginocchio su una sedia coi capelli corti. Eravamo forse solo nel 56, un bambino. Quella di Mario Capanna è la prima volta di un'intera generazione. Capanna, figlio di una famiglia povera, studente e lavoratore di filosofia all'Università Cattolica di Milano, deciderà di cominciare a far sentire la sua voce. È il 1967. Capanna viene espulso dall'Università Cattolica poco prima di laurearsi con il professor Emanuele Severino. Il suo nome diverrà molto noto tra gli studenti universitari e lui, nel frattempo passato alla statale, diverrà leader del movimento studentesco. La prima volta. Piccola città, bastardo posto, appena nato ti compresi, ho fuffato che in 3 mesi mi spinse via. Piccola città, io ti conosco, nebbie e fumo, non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio. Mario Capanna, 70 anni tra pochi giorni, è l'ospite della puntata di oggi. La sua prima volta ha a che fare con la militanza politica, con il 68 e con tutta una generazione che ancora oggi fa i conti con quell'epoca. Che cosa è rimasto oggi di quei ragazzi? Come si relazionano al presente attuale, fatto di social network, telefonini, siti internet? E soprattutto, come si relaziona Capanna ai giovani d'oggi? Io per principio non ho telefonino. E so che tutti mi invidiano dicendo: ah, che fortuna, che bella cosa. Dico: ma scusate, potete benissimo farlo anche voi, non lo buttate via e torniamo al delizioso telefono fisso, no? Detto questo, è chiaro che uso internet, che mi è molto utile per delle ricerche, per esempio, ovviamente per comunicare e così via. E se posso approfittare, è appena uscito a mia cura un libro, ma non lo dico per mettermi una medaglietta, no? Poi spiego rapidamente perché, il cui titolo è Conoscenza e sapere digitale, dove la parola sapere è tra virgolette, no? Mm-hmm. E quindi, insieme a moltissime personalità della cultura del nostro paese, tanto per dirne una, da Tullio De Mauro, il più grande linguista italiano, fino a Antonio Ricci, per dire, e Michele Serra e mille altri, è il primo dibattito, diciamo, reale, interdisciplinare, nella vasta letteratura che si occupa di internet, che costituisce un confronto vero, no? E il tema è: siamo sicuri che internet fornisca l'occasione per aumentare la conoscenza, o piuttosto non dà la illusione di alimentare la conoscenza? E la risposta che viene fuori è sostanzialmente questa, no? Dipende dall'intelligenza con cui si usa internet. Metaforicamente io dico: se la mosca vuole evitare la fine che il ragno si attende, deve conoscere la ragnatela, in questo caso appunto web, che significa per l'appunto ragnatela. Certo. Senta, ai ragazzi di oggi qual è la prima cosa che vorrebbe consigliare? Qui rispondo, diciamo, con imbarazzo, perché sembra che vogliamo fare una predica ai ragazzi di oggi, che giustamente rifiutano. Ma io trasmetterei loro quello che è stato per me l'insegnamento di uno dei miei più grandi maestri, Ludovico Geymonat, grande filosofo, certo, della scienza, che appunto, rivolgendosi a un ragazzi di un liceo di Varese, disse loro: contestate e create. Tre parole, vedi, straordinarie. Certo. Contestate, cioè sovvertite, per così dire, le verità, tra virgolette, date, e sottoponetele a verifica critica, e create, cioè inventate voi nuove forme per spingere avanti il mondo. A proposito, ecco, di scuola, lei è stato un grande contestatore, ma lei a scuola come andava? Quali erano le materie che le piacevano di più? Le materie classiche, latino, greco, italiano, eccetera. Ma tra l'altro io avevo un problema, essendo figlio di una famiglia abbastanza povera, diciamo, e dovevo praticamente mantenermi agli studi da solo. Allora c'era il cosiddetto famoso presalario per l'università, no? Che erano 300.000 lire all'anno, che oggi sarebbero banco 150 euro, ma che all'epoca era una cifra, diciamo, consistente. E allora il mio problema, soprattutto anche all'università, a partire dall'Università Cattolica, è di avere in pratica la media del 30, perché se appena gli esami si ottenevano voti lievemente scarsi, sia pure alti, che ne so, 27, 28, certo, 29, il rischio era di perdere il presalario, e per me avrebbe significato la interruzione degli studi. Quindi niente, si studiava come matti. È una grande balla quella secondo cui nel 68 non si studiasse. Tra un picchetto, un corteo, un'occupazione dell'università, un seminario, avevamo sempre un libro a portata di mano, questa è la verità. Beh, magari non proprio tutti, ma qualcuno... Ma sempre, no? In un grande movimento, è chiaro, ma nell'insieme, voglio dire, certo. Se tenni il discorso in latino al Parlamento europeo, beh, questo fa fede del fatto che si studiava. No, ma sicuramente lei studiava. Si ricorda la prima volta che parlò davanti a un pubblico? Assolutamente sì. Nel senso che me la facevo sotto, però mi consolò anni dopo Dario Fo, perché io gli chiesi: Dario, ascoltami, ma quando tu sali sul palcoscenico, dopo una vita che l'hai calcata, che sei diventato premio Nobel, cioè, ti viene naturale? E lui mi guardò e mi disse: no, io me la faccio sotto. Quindi si sentì in buona compagnia. Esatto, dice, ma questo è molto positivo, perché vuol dire che senti proprio il senso della responsabilità di comunicare con le persone. L'ho trovata molto bella. Bello. Una domanda così che ritorna al passato. Qual era il suo sogno da bambino? Allora, il mio sogno da bambino era stare in simbiosi con la natura. Io sono nato in una piccola frazione di campagna in Umbria, nel comune di Città di Castello, 200 anime tra Siena, e mi ricordo interi pomeriggi passati in riva al torrente, un affluente del Tevere, oppure sdraiato su un prato a guardare le nuvole e studiarne tutti i disegni, e lì la fantasia che galoppava, no? Poi, da più grandicello, da adolescente, il mio sogno era di fare l'insegnante di scuola media superiore. E poi il 68 ha deciso diversamente. Un riferimento alla musica, qual è il suo autore musicale preferito? Allora, per quanto riguarda gli italiani, Guccini, Stormy Six, ma sono molto, molto eclettico. E per quanto riguarda, diciamo, l'estero, vabbè, i Beatles, i Rolling Stone e così via. Quindi è rimasto comunque legato a un certo tipo di musica di quel periodo, se dovessi un po'... Sì, ma la cosa bella qual è? Che i giovani di oggi, per esempio, conoscono e amano le musiche degli anni 60 e 70. Di quelle precedenti o di quelle successive, anche perché probabilmente soprattutto quelle successive sono talmente brutte che se ne interessano poco. Quindi lei X Factor non lo guarda, ad esempio, così tanto per... per carità, considero un tempo perso vergognoso. Concludo con una domanda, mi sembra inevitabile. Si dice che si nasce incendiari e si finisce pompieri. Lei in questa gradazione come si mette? Piacerebbe a Certudi che fosse così. Nel mio caso no, nel senso che è chiaro, a 70 anni uno ha un incremento di saggezza, di ponderazione, questo è normale, ma io nella mia vita ho sempre considerato importante mantenere la rotta. Mantenere la rotta, che non vuol dire stupidamente che se tu stai navigando e vedi che di fronte a te c'è uno scoglio, e non la modifichi la rotta e cerchi di aggirarlo, è ovvio che sì, però dopo che hai modificato la rotta la riprendi e vai avanti con coerenza, dirittura e limpidità. Diceva Kant, l'onestà è la miglior politica, questa è una bussola che mi ha sempre guidato. La prima volta termina qui. Ringrazio il collega e amico Dario Ceccarelli per questa bellissima intervista. Ci risentiamo domenica prossima. L'ospite di domenica prossima sarà Umberto Veronesi. Grazie regia a Gianmarco Ferronato. Buona domenica a tutti. Da Cristina Carpinelli.